eccoci, è già tutto finito. L'estate è già dietro, adesso si deve pensare a riprendere un ritmo normale, dormire meno, studiare o lavorare. Uffa che noia, tutto ricominciare. Ma prima voglio ricordare. C'era una volta l'estate, canzone che segnano le nostre storie. Non vorrei scordare quelle risate che ho fatto quell'estate, estate. C'era una volta l'estate, girare nelle città per incontrare gente da ricordare o da odiare. Mi ricordo quei chilometri che ho fatto quell'estate, tutto in giro, giro, giro. È tutto in giro, è tutto in giro, è tutto in giro. L'inverno dovrei dire piuttosto l'inferno, è già un passo avanti mio fratello. Questo è tutto un giro.